Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Cosa resta ad un bambino, a un ragazzo gravemente malati e costretti per mesi, a volte per anni, a volte per sempre in ospedale? La scuola. E per fortuna oggi sono 156 le scuole e 195 le sezioni ospedaliere in tutta Italia che consentono il diritto allo studio a migliaia di alunni, 604 i docenti impegnati a seguire negli ospedali o a casa i ragazzi che purtroppo a scuola non ci possono andare. Ora però c'è un problemino e tutto questo è a rischio. I 3 milioni di euro stanziati per il 2009 sono bloccati al Ministero dell'Economia. La denuncia arriva da Anna Serafini del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia. E un bambino quando è malato ha anche meno risorse rispetto a un adulto per fronteggiare la malattia. La scuola in ospedale e la possibilità di fare attività scolastica a casa significa per il bambino la sua non esclusione dal contesto educativo e dal contesto scolastico. E con questi 3 milioni di euro si sarebbe in grado proprio di dare un concreto sostegno ai bambini, a dare loro una concreta possibilità di proseguire negli studi a casa e di avere un aiuto anche nell'integrazione scolastica a scuola. È possibile farlo perché sono 3 milioni di euro anche nella crisi e è un fatto di civiltà irrinunciabile proprio per i bambini e per le famiglie. Lo diciamo spesso qui a Obbligo di Frequenza, questa scuola non fa affatto schifo come tanti continuano a dire. Siamo a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, ricorderete la rivolta degli immigrati, quei capannoni fatiscenti fatti vedere da tutte le TV, scene davvero da terzo mondo. Noi invece puntiamo i nostri microfoni su una scuola di Rosarno, l'Istituto Superiore Raffaele Piria. Fra i suoi banchi anche figli di boss dell''ndrangheta che proprio grazie alla scuola provano a cambiare vita. La dirigente scolastica Maria Rosaria Russo. Allora, innanzitutto è un polo di eccellenza, quindi un'oasi felice che rappresenta l'altra verità della città di Rosarno. Relativamente a quanto lei mi ha chiesto, noi ogni anno organizziamo il Festival della Creatività, Levia Gravia di memoria carducciana, argomenti di tono leggero e di tono pesante. Dedicato questo festival a personalità insigni. 3 anni fa l'abbiamo dedicato ad Aldo Moro, l'anno scorso al giudice Scopelliti, quest'anno abbiamo messo in parallelo 2 storie, quella di Peppino Impastato e di Giuseppe Valarioti, 2 eroi dei nostri tempi uccisi dalla mafia. Quello della legalità è un argomento piuttosto sentito, direi, sì. No? Nella vostra zona, perché insomma sappiamo essere una zona un po' particolare. Certo, la nostra scuola è collocata in un'area fortemente a rischio, predominata e dominata, lo sappiamo, dallo strapotere mafioso, dalla criminalità organizzata, dalla microcriminalità. Intorno a noi ruota il traffico internazionale di droga, di armi, eppure la scuola si fa sentire in questo momento. È un presidio di legalità. Assolutamente sì, condanna qualunque forma di illegalità, abbiamo dei ragazzi straordinari, intanto circa 830 studenti che rispettano le regole, quindi con diritti e doveri, allievi che non sanno cosa sia un atto di bullismo, che non hanno mai scioperato, che hanno sostituito alle assemblee d'istituto una possibilità, quella di realizzare dei cicli di conferenze con le forze dell'ordine. E le famiglie che dicono? Le famiglie sono molto felici di questa scelta, diciamo che la carta vincente della scuola è stata proprio quella di abbattere lo status sociale e di considerare tutti gli allievi non per il cognome che portano ma per quello che riescono a dare e quindi per il loro contributo quotidiano, per cui non esiste il figlio del primario e questo mi piace ribadirlo, non esiste il figlio del mafioso, i ragazzi sono tutti uguali, stessi diritti e stessi doveri e quindi è chiaro che il dialogo costante, quotidiano, l'opera di persuasione, far capire loro che ci sono delle alternative, che bisogna accantonare l'idea dei facili guadagni senza sudore, li pone di fronte ad un quesito: cosa farò domani, cosa devo fare domani? E quindi è chiaro che poi i ragazzi stessi optano per il cammino della legalità. Mi faceva cenno al discorso del cognome, a prescindere dal cognome sono tutti uguali. E a proposito di cognome, a vincere il premio Impegno Scuola Legalità è stata proprio una ragazza che invece porta un cognome noto e non per cose positive. Certo, certamente. Tra l'altro, chi è questa ragazza? Il premio si chiama Narita Molè. Realizzato veramente un lavoro straordinario nell'ambito di un concorso interno alla scuola per le quarte classi, concorso Impegno Scuola e Legalità, che ha veramente coinvolto tutti, commosso tutti, ed è stata una pugnalata, possiamo dire, al cuore, perché chi è Anna Rita Molè? Annalita Molè, come lei stessa dichiara nella sua lettera, che ormai è di dominio pubblico perché sta facendo il giro del mondo, è la figlia di Rocco Molè. La ragazza stessa dice: un uomo che amerò sempre perché era mio padre, un uomo che ha sbagliato e ha pagato con la vita. Quindi consapevolezza di un entourage ingombrante, ma anche desiderio, grazie alla scuola, di farcela e quindi di costruire un futuro diverso per se stessa e per le sue sorelle, per la sua famiglia. Perché è la figlia di un boss rimasto ucciso, un boss dell''ndrangheta. Sì. Ecco, lei ci vuole leggere qualche passo di questo lavoro, perché è davvero bello, vale la pena di ascoltarne qualche brano. Guardi, intanto le faccio una breve premessa. Questa ragazza io l'ho incontrata per caso ed era completamente demotivata e aveva rinunciato agli studi. Era praticamente scappata dalla scuola che frequentava prima, perché subito dopo la morte del padre si sentiva additata e quindi chiaramente la ragazza soffriva proprio di questa situazione che la tormentava quotidianamente, per cui aveva deciso di rinunciare agli studi. E allora ci fu un incontro casuale in cui io le dissi, perché stavo leggendo un libro di pensieri sparsi, le dissi testualmente: ci sono dei fiori che crescono negli abissi marini, che nessuno coglie, nessuno vede e che qualcuno disprezza, ma sono fiori. Allora, da questa affermazione, da questo pensiero, scaturì in lei la voglia di guardarsi dentro. E allora c'è un passo del suo tema che dice: allora ho scavato dentro di me e ho cercato la chiave che avrebbe potuto aprire le porte del mio destino. Ho capito che dovevo ricominciare, voltare pagina e intraprendere il cammino della legalità, non solo per me, ma per la mia famiglia. In questo la scuola di Rosarno è stata maestra di vita, mi ha accolta, mi ha aiutata a crescere e a pormi domande sul mio futuro, mi ha fatto comprendere che bisogna condannare qualunque forma di illegalità, perché il potere, il facile guadagno senza sudore e senza conquista disintegrano i valori, annullano la persona, distruggono l'esistenza e l'anima di chi ti sta accanto. So che studiando posso cambiare radicalmente la mia vita, assumendomi le mie responsabilità e gestendo tutte le avversità che la vita mi presenterà. Voglio continuare a studiare, voglio cambiare, voglio diventare qualcuno ed avere il diritto di dire la mia opinione in qualunque ambito senza vergognarmi. Ma per fare ciò ho bisogno di aiuto e, come me, tanti altri ragazzi che vivono o hanno vissuto il mio stesso dramma. Proprio per questo mi appello alla giustizia, alle forze dell'ordine, che spero possano valutarmi non per il cognome che porto, ma per quello che saprò dare, per ciò che saprò diventare, per il contributo che saprò dare alla società. E questa è la scuola che ci piace, perché ha aiutato questa ragazza a compiere un percorso difficilissimo. Assolutamente, le posso dire che il caso non è isolato, perché qua abbiamo decine di allievi che quotidianamente si distinguono in tutte le attività e consideri che durante l'ultimo Festival della Creatività un gruppo di allievi, alcuni dei quali appartenenti a determinati entourage, hanno attraverso uno sketch messo in ridicolo la mafia e quindi la cosa, insomma, mi ha commossa particolarmente. Ecco. Perché è un passo importante, se lo mettono in ridicolo vuol dire che hanno capito dove sta la verità e possono anche riderne, insomma, della realtà in cui vivono. Subito dopo la rivolta degli immigrati, che in qualche modo mediaticamente ci ha penalizzato e criminalizzato, perché, ripeto, come questi ragazzi ci sono tante famiglie per bene ed oneste che non si piegano assolutamente allo strapotere mafioso, abbiamo organizzato il No Mafia Day. Consideri che la scuola ha circa 830 allievi, tutti gli allievi autorizzati autorizzati dalle famiglie, quindi con regolare autorizzazione hanno preso parte alla manifestazione invadendo la città di Rosarno. Lei non ha mai avuto problemi, quindi, di pressioni dall'esterno, dalle famiglie? Assolutamente, assolutamente. I ragazzi sanno che per ottenere dei risultati devono studiare. Il primo anno in cui io mi sono insediata in questa scuola ho bocciato 109 allievi senza avere un ricorso o una minaccia, rendendo le famiglie consapevoli che i ragazzi avrebbero comunque dovuto ripetere l'anno. Il problema di fondo è questo, bisogna intanto dialogare, ecco, il dialogo è fondamentale, dialogo con gli allievi, dialogo con le famiglie, rendere le famiglie consapevoli che l'unica possibilità di uscire dalla miseria morale è l'istruzione, la cultura. Quando si entra nel cuore delle famiglie si toccano le corde profonde, che sono quelle poi che fanno capo ai figli, ai loro figli. È chiaro che ogni genitore vuole costruire un futuro diverso per i propri figli. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.